come collocare nel mondo della musica internazionale. Qualcuno lo chiamava un sound anche un po' ossessivo, qualcun altro una versione un po' delicata del dark punk. Insomma, non so, intanto io vi dico buonasera, sono Flavio Bilato, dall'altra parte del vetro per capire un po' di più di Psychedelic Furs abbiamo Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio. So, avevano una cosa importante, un leader carismatico, quello sì. Avevano. E quindi e non di più. No, avevano il leader carismatico e quel leader carismatico molto bravo era Butler. Sì, Butler. Sono andate avanti, hanno fatto dei successi strepitosi, questo è un successo strepitoso mondiale, non soltanto inglese. E poi c'era anche il fratello al basso che dettava un po' anche. Esattamente, ma Butler era l'immagine della band, quindi vedo che non ti ho colto impreparato. No, è un grande gruppo i Psychedelic Furs. Bene, bene. Quindi sappiamo qualcosa di più di Psychedelic Furs, però Maurizio, perché sei con me anche in questa sera di lunedì? Di lunedì, che non c'è santo stasera. Assolutamente. Perché? Perché stasera abbiamo, grazie all'organizzazione di Alberto Prisco, siamo riusciti ad avere al microfono, cioè al telefono, pardon, microfono magari, al telefono Simone Lenzi, leader di Virginiana Mindle. E quindi più tardi impareremo anche a conoscere di più di quello che è il nuovo lavoro di Virginiana Miller, che è uscito da poco. Sì, da pochi giorni. Che si intitola Il primo lunedì del mondo. E forse anche per questo che abbiamo chiesto il permesso. Esattamente. Di venire qua anche a lunedì sera. Quindi più tardi all'interno della programmazione musicale di Blu Radio Sera. Allora, io direi Maurizio che possiamo iniziare già con una canzone, aspettando l'intervista, quindi adesso cerchiamo di metterci in contatto proprio con Simone Lenzi. Vi ricordo comunque che funziona anche il nostro SMS 346-23-20033, questo sia per le vostre richieste, sia per dirci qualcosa di quello che succede dalle vostre parti, sia per fare un commento ai Virginiana Miller. Hai presente quando sogni di morire? Chiuso nella campana extracomunitari intorno. Ed ogni giorno uguale al precedente. Questo che abbiamo ascoltato è Giuliano Dottori con un brano uscito relativamente da poco, l'inno nazionale del mio isolato, si intitola così, ed è uscito anche il suo ultimo lavoro, il lavoro di Giuliano Dottori, che si intitola Temporali e Rivoluzioni. Maurizio, una breve storia di questo. Sì, un ragazzo bresciano, musicalmente abbastanza interessante, decisamente interessante, è cantautorato non prettamente classico, un cantautorato un po' particolare, un indie, possiamo chiamarlo indie cantautorato, cioè un cantautorato fuori dagli soliti schemi. Anche perché inizia un po' in sordina la canzone, non sembra così sui canoni generali della musica pop. E poi è una canzone pop. Poi però quando infila la porta del proprio isolato, voglio dire. Esattamente, c'è la melodia è più importante, la cosa fondamentale. È una canzone pop, tra virgolette, possiamo certo dire. Quindi in nazionale del mio isolato, Giuliano Dottori. Allora tra poco ci collegheremo appunto con Simone Lenzi di Virginiana Miller, ma prima Malika Ayane. Questa è Malika Ayane con Soul Wither. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua all'interno di Blu Radio Sera, ancora una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato, dall'altra parte del vetro abbiamo Maurizio Calzavara e in collegamento telefonico abbiamo Simone Lenzi dei Virginiana Miller. Buonasera Simone. Buonasera a voi. Buonasera Simone. 20 anni di carriera e tanta voglia di far canzoni per altri 40 anni. Un bellissimo invito Simone questo. Beh certo, ti ringrazio, me lo auguro anch'io. Spero di durare fisicamente abbastanza. Anche perché, da come dice il titolo dell'ultimo vostro lavoro, il primo lunedì del mondo, insomma, dà atto che si possa proseguire in una maniera, insomma, abbastanza gritosa. Dal lunedì alla domenica sono 7 giorni. 7 giorni, quindi tante cose da fare. Tante cose da fare. Ora speriamo, ora che abbiamo finito di fare il disco, insomma, speriamo anche di aver modo di girare abbastanza per suonarlo in giro, insomma, questo è quello che vogliamo fare ora. Ecco. Il sesto disco, mi pare, Simone, della vostra carriera. Sì, sì, diciamo, sì, il quinto di inediti, il sesto l'abbiamo fatto anche un live, sì, quindi. Il sesto disco, sì. Ci sono stati dei problemi perché la vostra etichetta precedente, la Radio Fandango, ha chiuso i battenti, quindi è stato ritardato per questo motivo. Sì, è stato ritardato, diciamo, noi eravamo pronti all'incirca un annetto fa, poi appunto Radio Fandango ha smesso di produrre dischi e quindi ci siamo guardati intorno per capire come fare uscire in un momento anche che per la discografia non è molto semplice, insomma, perché i dischi ora se ne vendono sicuramente meno, per cui è più difficile trovare il modo di uscire. Poi tu hai detto una cosa molto bella: noi non facciamo parte del paese reale, noi siamo sulla luna. Sì, questo è vero. Beh, direi che in effetti, ma no, non nemmeno per una nostra scelta, ma forse per noi siamo, alla fine ci siamo accorti che non facevamo parte né del cosiddetto mainstream, insomma, cioè certo. Né parte di tutti i luoghi, di tutti i laghi. È bellissima questa una frase diciamo significativa, né forse siamo così dentro l'indie, ecco, diciamo, da un altro punto di vista. Continuiamo a fare il nostro discorso ormai da un po' di anni. Ci siamo accorti per fortuna che in questi anni abbiamo messo insieme un pubblico, ecco, che questo è già tanto, insomma, è quello di cui poi hai bisogno, no? Di fatto, cioè il fatto che fai delle cose e c'è qualcuno che l'ascolta, questo è quello a cui si deve alla fine aspirare, insomma, cioè. Certo, e quindi diciamo che c'è stato poi questo incontro di chi ha creduto in voi e anzi di chi ha usato voi come punta di diamante per la propria, come dire, per la propria casa discografica. Questa coraggiosa etichetta sarda, sì, che si è messa a produrre questo Zar Record. Esatto, sì, sì. No, vabbè, la fortuna è comunque che poi la distribuzione invece di Edel, che vabbè, sì, importante, nazionale, e che appunto non ha avuto difficoltà, insomma, a poi firmare questo contratto di distribuzione, perché comunque anche l'altro disco in qualche modo aveva venduto qualcosa, per cui insomma era anche nel loro interesse fare questo accordo, per cui insomma, beh, insomma il disco si trova, direi, più o meno ovunque, almeno così ci dicono. Certo. Tu hai detto che è un disco di rinascita questo, Simone. Ma sì, per il gruppo sicuramente, ma anche per me personalmente, perché insomma, per una serie di vicissitudini personali ho avuto qualche anno di difficile e questo invece è stato anche una specie di scopo di terapia, se vuoi, anche insomma, l'avere in mente di fare questo disco, di scrivere queste canzoni, di realizzarle in qualche modo, è stato qualcosa che ci ha aiutato, insomma, a tirarti su, per cui alla fine il primo lunedì del mondo ci sembrava il titolo più adatto per segnare questa idea se vuoi, di risveglio, insomma, di rinascita, di rimettersi in moto. Anche perché avevi già detto assieme al tuo gruppo che non sapevate esattamente come chiamare questo disco, perché come avevate pensato altresì di chiamarlo? La prima idea era stata l'ultimo disco di Virginiana Miller. No. Forse non so se questo l'abbiamo deciso, diciamo, nel momento più buio della nostra vicenda o però sai come si dice sempre, poi alla fine il fondo è sempre anche il principio della risalita, per cui almeno finché ce la fai a risalire. certo. Quindi, però diciamo fortunatamente poi alla fine il primo Musica del Mondo ci ha sembrato il titolo più adatto. Noi abbiamo scelto come apertura del programma musicale per far sentire il vostro disco, io ho scelto Lunedì. A me è piaciuta molto per un motivo semplice: è il vostro suono classico, ma la vostra melodia a vostro piacimento, cioè la melodia è costruita da voi, personale, particolarissima. A me è piaciuto particolarmente questo pezzo, abbiamo deciso di iniziare questa cavalcata nel suono di Virginiana Miller con questo pezzo. Non so se sei d'accordo, Simone. Assolutamente sì, forse è uno dei pezzi più rappresentativi del disco. Bene, allora ascoltiamo questo pezzo che si intitola Lunedì, Virginiana Miller con il loro ultimo disco che si intitola Il primo Lunedì del Mondo, dal quale appunto abbiamo estratto questa canzone che si intitola Lunedì. Nossa! Radio Sera. Ed eccoci qua, Virginiana Miller, Il primo lunedì del mondo, un bel brano ci siamo ascoltati da questo ultimo loro lavoro che si intitola Lunedì, e per approfondire l'argomento abbiamo in collegamento telefonico Simone Lenzi. Buonasera nuovamente Simone. Sono sempre qua. Benissimo. Allora, tu Simone hai detto una cosa, una frase molto giusta che si collega al lunedì. Quello che riusciamo a fare e lo facciamo solo con le nostre gambe. Questo è un grande pezzo a mio parere, un bel arrangiamento, un arrangiamento alla Virginiana Miller. Sì, diciamo quella alla fine che si può riuscire a fare, alla fine somigliare a se stessi. Chiaro, chiaro, questo è importante, soprattutto somigliare a se stessi. Tu giustamente hai sempre portato avanti un discorso personale, la band personale, non legata a determinate cose. Avanti, Virginiana Miller, quelli sono e basta. Beh sì, ma non è che è stata una scelta poi alla fine, cioè non so come dire, alla fine fai quel che ti riesce, quel che ci riusciva era qualcosa che forse alla fine non era facilmente incasellabile in nessuna, diciamo, delle grandi mode o delle grandi linee di tendenza, insomma, siano forse queste come posso dire commerciali, sì, oppure più legate all'indie, però di fatto poi alla fine, insomma, quello che facevamo ci ha sempre avuto una sua, è sempre stato un po' da una parte, a qualcuno è piaciuto, a qualcuno no, però alla fine io penso che non bisogna, cioè che non si può piacere a tutti, ma soprattutto non si deve piacere a tutti, credo, insomma. Certo, giustissimo. Piace a quelli che hanno le nostre stesse, certo, idiosincrasie o che ne so, passioni, se vuoi. Sì, a proposito di rinascita, anche nel gruppo c'è stato un avvicendamento, vero Simone? Sì, l'altro, uno dei due chitarristi, Marco Cassini, ci ha annunciato che la moglie aspettava il quarto figlio, e quindi davanti al quarto figlio lui ha detto: no, guardate, io non ce la faccio assolutamente più a venire 3-4 volte la settimana a provare. E noi, insomma, è una scelta che ovviamente gli è costata molto, perché insomma ci aveva passato una vita anche lui con noi, quindi non è facile, però era anche una scelta inevitabile, perché insomma è andato via Marco Casini, è subentrato al suo posto Matteo Pastorelli, che è un chitarrista, insomma, che ci piaceva già molto, insomma, anche prima, quindi è stata, diciamo, la scelta direi più naturale, ecco, che per prendere il posto di Marco, il quale ora, insomma, sarà soprattutto impegnato con i pannolini. Certo. Tu hai detto che è anche figo, no, chitarrista, è questo? Sì, questo è vero. Quindi vi portate dietro un'altra fetta femminile. questo è vero, io mi auguro, sì. Oggi eravamo alla sala prove, è andato via, c'aveva questo casco, l'abbiamo preso in giro per un'ora, perché c'è questo casco dell'Emporio Armani, tutti a ridere, no? Si è rubato il casco dell'Emporio, roba per noi veramente inedita, direi. Fantastico. È stato buffo, sempre molto curato, sempre. Però insomma è un bravo chitarrista soprattutto, non è al di là delle firme, è importante quello, no? Certo, sì. Vabbè, e poi anche un'altra curiosità che volevo chiederti, visto che ti ho qui in diretta telefonica, il perché del gallo, Simone? Ma sì, è legato sicuramente, è una foto che ha fatto Valerio, che è il nostro batterista, e anche quello che ha sempre curato la grafica dei dischi, e si collega, insomma, direi abbastanza bene all'idea, appunto, no, del risveglio, del mattino. Cioè, aveva questa bella foto di questo bel gallo così che guarda in macchina in questo modo, anche un po', se poi un po' furbesco, un po' furbesco anche, quindi ci è piaciuto, ci è sembrato giusto. Benissimo, allora passiamo, Simone, adesso il pezzo da cui è tratto un video, si parla del film La prima cosa bella di Virzi. Sì, abbiamo usato lui ha avuto, diciamo, la bontà, la generosità di darci delle scene inedite del film, e oltre a quelle abbiamo girato altre parti con Simone Manetti, che è quello che ha curato la regia e ha messo insieme il tutto, e quindi, diciamo, abbiamo fatto un video dove direi piuttosto divertente, perché c'è cioè, vabbè, la scena di Marcandrea dove prende la pallonata in, in faccia e mi è toccato rifarla, e quindi anch'io mi sono ripreso. Perfetto. Soprattutto per chi lo vede, diciamo, per me. Perché tanto. Non è stato piacevolissimo. Però vabbè, sei costretti un po' per l'immagine anche, no? Vabbè, sì. Allora cosa dice Maurizio? Sì, mettiamo sul pezzo allora. Bene, allora stai sempre con noi, Simone, certo. Che ci serve anche per commentare anche altri pezzi. Intanto noi ci dobbiamo fermare per dare spazio anche ai nostri sponsor e poi ritorniamo ascoltando un altro pezzo tratto dall'ultimo lavoro dei Virginiana Miller, che si intitola Il primo lunedì del mondo. Il pezzo che abbiamo scelto è questo, Acque sicure. In occasione dell'ostensione della Sacra Sindone, Il Mattino, La Nuova e La Tribuna presentano Sindone, Storia e Scienza 2010. Un volume di Pierluigi Bollone con il testo più completo, documentato, aggiornato sui risultati delle indagini storiche e scientifiche sulla Sindone e la ricostruzione del percorso e delle vicende per arrivare sino a noi. Sindone, Storia e Scienza 2010, un volume esclusivo a soli 9,90 € in edicola con Il Mattino, La Nuova e La Tribuna, con il patrocinio del Comitato per la Solenne Ostensione della Sindone 2010. Settimana Radio Sera. Ed eccoci qua ancora a parlare di questo disco dei Virginiana Miller, Il primo lunedì del mondo, con questo pezzo che si intitola Acque sicure, e abbiamo ancora il piacere di avere in collegamento telefonico con noi Simone Lenzi dei Virginiana Miller. Simone, ci sei? Sempre qua. Perfetto, allora raccontiamo questo concerto di Roma e questo movimento, questo pubblico che si è scaldato a sentire il pezzo. Sì, no, abbiamo fatto questa presentazione del disco a Roma, tre settimane fa, non mi ricordo il giorno. Qualche settimana fa. Molto bello, perché c'era davvero tanta gente, e sì, Acque Sicure forse è quella dove insomma ci si muove di più, direi. Certo, sì, io preferisco lunedì, però è mio personale parere, chiaramente, sempre è mio personale parere, però questo è un pezzo trainante, un pezzo che fa muovere la gente. Sono forse canzoni che hanno anche un po' funzioni diverse, forse con Acque Sicure ti muovi un po' di più, secondo me con lunedì puoi riflettere un po' di più. Sì, esattamente. Tra altre cose, per riflettere un po' di più e anche guardarsi il sito internet di Virginiana Miller, si può vedere anche il video di Acque Sicure collegandosi sul MySpace. Cioè, sul MySpace, anche ultimamente siamo molto attivi su Facebook, perché c'è un sacco di gente che ci... Abbiamo che c'è una comunità davvero... direi folle in un certo senso, perché sai che c'è appunto questo discorso del gallo. Tanti hanno comprato questi galletti che vendono gli ambulanti anche, e quindi se li fotografano un po' ovunque, cioè arrivano galletti dai posti più assurdi, insomma, oppure appunto la gente tiene il disco davanti allo stadio, insomma, vabbè, roba così, però è divertente, perché alla fine vedi, cioè, quello che mi piace di Facebook o di MySpace, di Facebook anche di più in un certo senso, è proprio questo fatto dell'interattività, cioè nel senso che la gente, hai un feedback dalle persone, la gente interagisce con te, insomma, ci mette del suo, questo è divertente. C'è un qualcosa di immediato che fa parte di questo pathos, proprio che arriva immediatamente, come se ci fosse una persona, questa presenza. Con te, quindi darti una risposta immediata rispetto a quello che fai, insomma, cioè c'è un flusso anche di come posso dire, di emozioni che va nei due sensi, cioè da noi verso chi ascolta e da chi ascolta verso di noi, che credo che per chi fa musica o anche dipinge o scrive o quel che vuoi, insomma, sia fondamentale, perché hai, come posso dire, cioè una misura vera e effettiva del riscontro che hanno le cose che fai, insomma, questo è importante. Proprio del live, formazione quindi assolutamente elettrica, Simone? Sì. Ora in realtà stiamo anche mettendo su una versione un po', diciamo, più acustica, pseudoacustica, un po' più basic, magari girando in meno, questo perché così magari è anche l'occasione di fare locali più piccoli o dove non è possibile, insomma, andarci in sei, perché insomma delle chitarre, tastiere, però diciamo i Virginiana girano volentieri in sei, ecco. Nel senso, questo è però insomma non è detto che non si riesca a fare anche una cosa più minimale, e quindi andando magari più al nocciolo delle canzoni. Questo lo stiamo provando, se viene fuori qualcosa di cui siamo davvero soddisfatti, magari poi la proporremo. C'è qualche idea per venire dalle nostre parti, Simone? Guarda, dunque, ora al nord abbiamo il 6 giugno, siamo a Milano, al Miami, questo grande festival che fa, sì, rock, eccetera. L'11 giugno siamo a Torino, e ora stiamo cercando di chiudere una data. Ci piacerebbe fare almeno un paio di date nel nord-est, insomma, cerchiamo il modo di chiuderlo, insomma, perché non vorremmo che, tra altre cose, prima parlavamo dei dischi, no? C'era, dicevano, fatto un live, sì. E quel live ormai vecchio, però insomma, lo registrammo proprio a Padova, al Banale, famoso locale, no. Non è lontano, e non è lontano da qua, non è lontano, no, da assolutamente no. Siamo anche così sentimentalmente legati, a parte che Padova è talmente una bella città per cui uno ci torna comunque volentieri, ma quindi un giretto anche nella nostra radio lo potrei fare, certo, cioè, ci farebbe assolutamente piacere, sì. Prossimamente, ecco, allora, prossimamente su questo schermo. Sì, dai, ora, allora, tanti, diciamo, alcune date le stanno chiudendo, le sta chiudendo l'agenzia in questi giorni, quindi vediamo, speriamo. Ok, abbiamo scelto un altro pezzo, Simone, La Risposta. Lo trovo un altro pezzo molto interessante, secondo me. Ieri sera io e Flavio abbiamo deciso di questi pezzi qua, la nostra decisione, chiaramente uno piace un pezzo, uno piace un altro, l'album è bello tutto, però ci siamo indirizzati su questi pezzi qua. Cosa dici della Risposta, Simone? No, personalmente è un testo a cui tengo particolarmente, ecco, diciamo, lo sento molto molto mio, per cui se l'avete scelto non mi fa che piacere. Benissimo. Anche perché ci sono raccolti i tuoi affetti, il tuo discorso, certo, d'amore, no? Io raramente ho scritto canzoni autobiografiche, insomma, cioè, mi è capitato quasi mai, ho preferito sempre parlare di altro o di altri, invece in questo disco forse Ti stai commuovendo. Un po' più denudato, diciamo. E questa sicuramente è una di quelle un po' più personali. Certo. Allora, ascolta, visto che è così bello e piacevole parlare con te, Simone, e ascoltare la musica di Virginiana Miller, stravolgiamo un attimino, ma delicatamente, la scaletta, Maurizio, se sei d'accordo. Allora, sistemiamo la Risposta, la facciamo ascoltare anche i nostri ascoltatori, e dopodiché reinterveniamo con Simone e concludiamo invece con quel pezzo. Sì, con quel pezzo famoso che tu, Simone, sai chiaramente, ma gli ascoltatori non sanno e lo sapranno fra qualche minuto. Lo teniamo come grande sorpresa. Va bene, allora ripartiamo da La Risposta qui su Blu Radio Veneto in compagnia di Virginiana Miller, Simone Lenzi a telefono e questo ultimo lavoro che si intitola Il primo lunedì del mondo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Resto sul fondo e mi nascondo, e mille, non più mille, bolle blu e l'immortalità dell'anima non è la mia, Radio Sera. Ed eccoci qua ancora a parlare di Virginia Anna Miller, di parlare del loro ultimo lavoro uscito da poco tempo, il primo lunedì del mondo si intitola questo lavoro, una copertina riconoscibilissima, un bel gallo bianco con una cresta rossissima, e poi abbiamo al telefono Simone Lenzi che ci parla di questo lavoro davvero straordinario. Simone, ci sei? Sono qua. Benissimo, possiamo rammentare tutta la formazione, Simone, tutti i componenti? Allora dunque, sì, a parte me, poi c'è Daniele Catalucci al basso, Valerio Griselli alla batteria, Antonio Bardi alle chitarre, Matteo Pastorelli che è il nuovo chitarrista, l'altro nuovo chitarrista, e Giulio Pomponi alle tastiere. Produzione è la vostra, Simone? La produzione è stata nostra, anche se diciamo, è intervenuto Ale Bavo di Casasonica che ha prodotto le voci, e Beppe Scardino che ha arrangiato gli archi e i fiati. Benissimo, benissimo, abbiamo chiuso il cerchio, giustamente bisogna citare la formazione fondamentale. Beh, allora se devo citare un altro, allora devo citare anche Ivan Rossi che è il fonico, certo, che ha fatto un gran lavoro con i nostri piccoli mezzi, ha fatto dei miracoli, secondo me, insomma lui è veramente molto bravo. Decisamente. Abbiamo sentito la risposta, abbiamo deciso io e Flavio che il prossimo mese, cioè quando scadrà il discorso del tempo per il singolo precedente, la risposta sarà il prossimo singolo da sentire in radio, come rotation secondo me. Ci fa piacere. Benissimo, grande pezzo. C'è la melodia, di solito la vostra melodia è un po' particolare, la melodia alla Virginiana Bide, stavolta è un po' più ampia, un po' più allargata secondo me. Sì, è un po'... come posso dire, diciamo forse in tutto questo disco abbiamo cercato di raggiungere l'incisività, cioè magari anche suonando meno a volte, che poi in realtà quando si sente il disco tanti ci hanno detto questo è il vostro disco più arrangiato, insomma si vede, in realtà non è vero, cioè non è che c'è più roba, forse ce n'è meno anche degli altri dischi, però anche nelle parti abbiamo cercato di raggiungere sempre l'essenziale, cioè ciò che serve davvero, ciò che poi alla fine tiene su il pezzo, secondo me. E forse sì, nella risposta credo è uno di quei casi in cui un po' ci siamo riusciti, la melodia è semplice però è molto aperta, insomma lascia spazio all'ascoltatore, che poi è la cosa più importante secondo me, cioè non secondo me quando scrivi una canzone alla fine devi lasciare spazio a chi ascolta per metterci del suo, ecco questo. Allora, Simone, sono 11 i pezzi all'interno di questo album, l'undicesimo però è del tutto particolare perché non è vostro ma l'avete fatto vostro, stiamo parlando di una cover che tra le altre cose è ben riuscita. È la pioggia che va, c'era stata chiesta perché è diventata la sigla di chiusura di un film che è Cosmonauta di Grani Chiarelli, che altre cose ha vinto anche un bel premio a Venezia, sì. E quindi niente, c'era stata commissionata, l'abbiamo fatta volentieri perché così fare questo tuffo nel beat era insomma divertente, diciamo abbiamo tenuto la melodia, sotto ci abbiamo fatto tutt'altro, però è quello il discorso, l'avete completamente ricostruita. e cosa ne pensa Shell? Non sai che non lo sappiamo, però mi farebbe molto piacere, in realtà il mio sogno sarebbe stata cantarla anche con un accento finto inglese, però poi alla fine non ho avuto il coraggio sì, perché poi va cantata un po' la pioggia un po' inglesizzata, lo richiedeva per fare il verso da Shel Shapiro. Bene e allora poi in chiusura di trasmissione, dopo che abbiamo terminato tutti gli argomenti con Simone Lenzi di Virginia Anna Miller, ascolteremo anche la canzone dei Rocks. Quindi Simone, se avete deciso di fare questa cover, ritornando al discorso della cover, sì, l'avete ricostruita, l'avete creata, avete fatto un pezzo vostro, al di là che gli autori non sono neppure i Rocks, è una cover di una cover praticamente. Sì, il testo italiano era di Mogol. Esatto, Mogol Lind sono gli autori. Certo. Quindi come si sa, beat anni 60, i Rocks cantavano, i Rocks hanno trovato praticamente l'Olimpo qua in Italia. Sì. Ma però era un bel periodo in Italia, quello, insomma c'era ma non solo la musica, c'è cioè anche tempo il cinema, di tutto, sì. Sì, era un periodo direi vitale. Esattamente. Una curiosità mia personale, cover nella vostra, nel vostro live show, oltre a questa qua, ce ne sono altre? No, questa volta facciamo solo quella. Ho capito. Sì, noi raramente facciamo delle cover, perché, ma sai che in realtà non abbiamo nemmeno iniziato, come, perché tanti gruppi iniziano sì, facendo cover, no? Cioè, che è anche formativo, è anche giusto, è bello fa. Però cioè, a noi non è andata così, cioè, noi ci trovammo ormai 20 anni fa la prima volta e dicevamo: cosa facciamo? Facciamo un pezzo nostro, e così è andata sempre. Quindi ci piace fare le cover, però è un esercizio che si fa abbastanza raramente, tutto sommato. Una cover mirata, poi una cover tra virgolette, possiamo dire questo. Sì, cioè, perché in realtà poi alla fine si finisce che si stravolge sempre così tanto, per cui alla fine tanto vale che tu faccia un pezzo tuo, insomma, certo, forse, certo. Cioè, la fatica è la stessa, no? certo. Vabbè, allora Simone, grazie per essere stato con noi, ci hai deliziato con queste chicche musicali davvero fantastiche. Diciamo, ringrazio voi per l'attenzione, grazie davvero. Assolutamente, canzoni, brani diversi dal solito, molto profondi, molto belli da ascoltare, quindi assolutamente un disco che noi di Blu Radio Veneto consigliamo anche ai nostri ascoltatori, quindi Virginiana Miller, Il primo lunedì del mondo, così si intitola il disco. Se avete difficoltà di trovarlo, c'è un qualche maniera per reperirlo anche nel vostro sito? Per ora non lo vendiamo noi il sito, perché appunto c'è una distribuzione nazionale, per cui in qualunque negozio uno può ordinarlo e arriva. Penso fra una decina di giorni comunque sarà anche su iTunes, quindi uno prenderselo, può anche scaricare di lì, e poi come si sa, insomma, uno alla fine se lo vuole il modo di scaricarlo lo trova sempre. Anche se il ministro Maroni nell'ultimo periodo aveva lanciato una pratica poco legale per scaricare i brani, e in questa maniera non si rende giustizia a quella che è la musica, che è la musica che naturalmente va pagata, perché anche questo è un mestiere, diciamo, e noi ci è costato tanto, ecco. Questo va detto. Costato non solamente di creazione, di fatica, esatto. Anche proprio di sgay, esatto, come sgay, dicono da noi, sì. Esatto. Vabbè, e quindi diciamo un'ultima cosa, che è riconoscibilissimo appunto da questa copertina davvero particolare, che vede proprio un gallo bello colorato, una bella foto, quindi gli ascoltatori sicuramente lo vedranno lì in prima linea. Bene, allora Simone Lenzi, grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie mille. E ancora complimenti, e ci sentiamo presto. E se sei dalle nostre parti, naturalmente uno squillo è gradito. Mi fatto a trovare volentieri. Grazie Simone. Ecco, ricordati la chitarra quando passi. Certo. Esattamente. D'accordo, okay. Allora. Ciao. Bene, grazie. Grazie. Cambio di un bicchiere di vino, magari. Quello lo portiamo noi. Quello lo portiamo noi. Va bene. Aggiudicato. Ok. Perfetto. Ciao. Allora, ciao, grazie. Concludiamo la conversazione con Simone Lenzi, presentando anche il brano che chiude questo nuovo loro lavoro, e che si intitola È la pioggia che va. Potrei dare una svolta alla mia crescita professionale. Facile. Scegli la formazione continua. Scegli Enaip Veneto. Puoi ottenere dalla Regione Veneto un voucher, un contributo fino all'80% del corso che vorresti frequentare. E per i lavoratori in difficoltà occupazionale, il